vedere come gira la situazione e renderci conto un po' come si muda. Invece se c'è gente che entra, lui di boom, si rampa e non sa manco che cos'è quello, cos'è l'altro. È vero, per fare ascolto serve sempre, diciamo nel caso tuo, perché tu sei un vecchio della frequenza, quindi non hai bisogno di questo, ma per tanta gente servirebbe. Cavalli avanti, detto questo, rilascio tutto a Giuseppe Leoncino, avanti Giuseppe. Cappa, grazie per avermi lanciato il mic. Bacchiglio è uno dei vecchi CB che abbiamo conosciuto, e allora erano altri tempi, caro Gianni, che c'erano vecchi CB che non voglio fare nome, adesso non voglio elencare, però prima c'era più divertimento, anche se c'erano più rompiscatole, però c'era più divertimento. Adesso la 27 è fatta così, non c'è più nessuno, o per quello o per quell'altro, la gente non ha voglia più di entrare in frequenza. E io dico questo, intanto cominciamo a entrare e poi la gente arriva, se la gente è all'apparato, accende, non sente nessuno, normale che poi se ne smatte non entra più. Invece trova gente, comincia a entrare una sera, comincia a entrare l'altra, poi c'è proprio il gusto e via, si va avanti. E questa frequenza era spenta per circa 10 anni. E siamo stati io, Natalino, Claudio, che un giorno ci siamo trovati e così abbiamo deciso di ripristinare tutto, di riaccendere gli apparecchi, e così abbiamo fatto e si è ripresa. Diciamo che molta gente nuova è entrata, non si può dire di no. Qui se è entrata l'altra gente, ne può entrare ancora. Io mi ricordo che in questo periodo di Natale, prima, tutti regalavano i baracchini, c'erano tutti i ragazzini che entravano in portata, un casino. Te lo ricordi, e prima era un casotto, e poi tutti i canali erano pieni. Tutti i canali erano pieni, si parlava di tutti i canali, invece qua adesso devi cercare un'ora, non c'è paura. C'è anche Antonio, noi siamo dedicati a Antonio Bombolino, poi da Bombolino diventa Bombolone, allora di Antonio. Capo, dai, per il momento vi lascio che mi hanno chiamato, ci sentiamo dopo. Ok, ciao Antonio, ci sentiamo poi allora, dai. Capo, dai, mi hanno chiamato, devo andare. Ciao a tutti. Dunque lui allora, sì, in effetti prima la frequenza praticamente era molto molto rigorosa, poi c'è stata una pausa, ma non del tutto, questo sia ben chiaro, e lo dico a voce alta, la frequenza non è mai stata chiusa definitivamente, mai, e poi mai, perché in quegli anni, Gianni, che tu hai detto, c'eravamo sempre io, Gio Maria, Mario Buonanima, Emanuele, Tonino Attila, e delle volte entrava anche Toccai e Porto Torres, perciò eravamo 4-5, questo d'accordo, però del tutto chiusa non è mai e poi mai stata. Poi naturalmente ci ha fatto piacere quando si è ripopolata, come oggi ad esempio, però siamo arrivati a quei livelli, quella che ha fatto una grande riuscita a ripopolare, ripopolare la frequenza, perché quanti siamo? 15, non di più, sì che ha avuto un successo servizio tutto sommato già. Trovate la domenica solo, perché anche io entravo come trovate voi. Entravate solo esclusivamente la domenica mattina, poi punto, non si sentiva più nessuno. No, entravamo anche durante il balneare pranzo, entravamo anche la notte, adesso per la parte Mario Buonanima non entrava la notte, però diciamo che la chiacchieratina ce la facevamo, non era proprio così. Capito? Sì, non eravamo assidui tutti i giorni, questo no, qui ci mancherebbe, tutti i giorni nemmeno adesso ci siamo tutti quanti, perché se sento per dire a te, domani magari non sento un altro e così via, come è sempre stato il resto. Prima erano 23 canali, c'erano ruote dappertutto, con tanti CB. Però tutto sommato non rimpiango affatto negli anni passati, per il semplice motivo che prima c'era solo casino, oggi invece la questione è pulita, lo sentiamo importante, difficilmente sentiero portante, ma proprio difficilmente, siamo 15 vagoni, tutto lì, già, capito? Sì, ma anche io non è che rimpiango molto gli anni passati. Che se c'era l'imbarazzo della scelta, tu si devi cavare che ti... dove c'era gente che ti piaceva di più e restavi lì. È vero che in certi canali manco c'entravo, entravo solo nei canali dove c'era gente tranquilla che ci potevi parlare, scherzare e via. C'era Falcone che rompeva le scatole, eccetera, eccetera. Tutte queste cose qua non le contiamo. A volte Falcone stava parlando 3 ore e poi quando rimollava il bike dopo 3 ore non trovava più nessuno di tutti i fuggiani. Sì, quello è vero, ma se per quello c'era anche uno che non mi ricordo come si chiama, anche quello io una volta ho cronometrato, addirittura è stato 3/4 d'ora, quasi sempre modulando, e noi avevamo cambiato tutti quanti i canali, lui che parlava sempre da solo, era uno che faceva l'arbitro di calcio, non so se tu te lo ricordi, io non mi ricordo assolutamente il nome di questo tipo qua, era una persona giovane, non molto grande in realtà, io penso a circa 30 anni avrà avuto, ma quando attaccavo non smettevo più, 3/4 d'ora una volta, ragazzi, da proprio con il controllato con un ruggio, 3/4 d'ora, lui stava sempre parlando, e noi siamo passati in altro canale, siamo passati ogni tanto ci avvicinavamo al canale dove era lui, e lui sempre continuava, praticamente parlava da solo, perché lui non ce l'avevano più. Vai, ma chi? Ok, dai. Io vi approfitto adesso del micro per salutarvi e passarvi in QRT. Bene, ciao Giuseppe, ciao Gianni, ciao Giulio, ciao anche agli altri che sono in ascolto, senz'altro gli ascoltoni ci sono. Ma chi vi saluta, vi auguro ancora buon quasio e ci vediamo alle prossime. Giulio, se tutto va bene, già ci vediamo domani. Ciao, ciao. Ciao Bacchi, ci sentiamo, buona serata, dai. E buon divertimento. KK, riprendi... o Giulio, poi fa Giuseppe, ok, ciao Bacchi, salutoni, a domani allora, così ci prendiamo qualche insieme, avanti Giuseppe. Ciao Bacchi, mi ha fatto piacere che sei entrato in frequenza e abbiamo fatto 5 minuti di chiacchiere, ci siamo divertiti, abbiamo sferrato un po' di cazzate e diciamo ci siamo un po' divertiti, dai. Ci fa piacere se entri spesso nella frequenza, nel canale 10, almeno ci facciamo un piccolo QSO tra amici e ci divertiamo, dai, e passiamo una mezz'oretta tranquilli. Io di quest'anno a Bacchisio deve prendere un lugare, solo che anche lui ha i suoi impegni chiaramente, e beh, poi ha la campagna che la deve accudire e tutte queste belle cose qua, lo sai, lui lo svago ce l'ha, non è solamente un baracchino che ha, però ci farebbe veramente piacere, come appunto hai detto tu, se lui ritornasse in frequenza in maniera un po' più assidua, così almeno possiamo trascorrere qualche mezz'oretta insieme, chiacchierando, dicendo anche su stupidaggini, però stando insieme alla radio ci fa piacere un po' a tutti, suppongo. Avanti Gianni. E qui stanno preparando tutto per cantare, mi sa che io adesso mi alzo e vado con loro, stanno preparando mixer e quanto c'è a casa, per fare un po' di festa, siamo tutti insieme qua. Ho acceso così perché ho sentito gente e sono venuto a salutarmi, adesso mi allontano e saluto tutti cordialmente anch'io e vi lascio al vostro QSO. D'accordo raga, statemi bene e buona continuazione, dai, ciao ciao ciao. Ciao già, saluto a risentirci allora, vai a fare karaoke, così ti diverti in famiglia. E anch'io mi sa che chiudo, sono già le 7:05, esatto, e gira, scendo giù, dai, e così mi dà l'umore, sapete il marettone. Giuseppe, ciao, ci sentiamo, alle prossime, magari non so, forse, no, domani lavoro, domani no, non credo che domani ci sentiamo, però la domani sera, non lo so, però se non ci vado a lavorare domani sera, perché magari questi giorni di Natale andavo la mattina e la sera no, però domani penso di rientrare di nuovo, anche perché ho da fare qualcosina, dunque me la voglio regalare. Vabbè, ciao Giuseppe, salutoni, grazie per questo a tutti, ci sentiamo alle prossime, ciao ciao. Ci sentiamo tutte le prossime, se nel concile si fa bella giornata domenica, domenica il primo ci incontreremo in Piazza Lessini se va bene la giornata lì, ok? Anch'io faccio quelli di e ci saluto a tutti quanti i componenti del canale 10. Ciao ciao, quelli di per me. Giulio! Sì, Giulio, tu! Sto prendendo il mio numero, ti devo chiedere per un mobile. Cosa mi hai detto? Il numero, così hai detto? Il numero di telefono. Quindi, lo sai, 348, scrivi. 146, 50, 36, ripetimelo. No, ti stavo dando il mio, vabbè, se vuoi, allora, dimmelo. Allora, scrivi, la prima ce l'hai? Sì. 348, 146, 50, 36. 348, 146, 536. No, 50, 36. Ci manca un zero, 50, 36. Allora, dimmelo piano piano. Ripeto, 3, 4, 8. 1, 4, 6. 5, 0. 3, 6. Tombola. Lasciamo vedere. Spento. Ecco qua che controllo, aspetta. No, ma non è spento, aspetta che controllo. Allora, vediamo. Sì, già è acceso. Dai, fallo. Senti, adesso prendo io il numero. Mi do uno squillo e io ti richiamo. Ce l'hai il telefono? Sì, dimmi, avanti. 346 33 45 100. Allora, 346 33 45 100, confermi? Papa, chiama. Sto chiamando, ecco qua, mandato, inviato. Antonio, no, non ho credito, ma adesso mi ha avvisato la cosa, come si chiama, la Vodafone. Allora, messaggio. Ah, eccolo qua, dai, ti chiamo io. L'hai ricevuto? Sì. Vabbè, vediamo un po'. Allora, mandamelo tu adesso, fammi la chiamata tu. Sto chiamando. Dai. Dalle, questo non è il tuo. Aspetta un attimo, Antonio. Questo. Ecco qua, adesso vediamo. Ecco. Aspetta, Chiamami. Ripetimi il tuo numero, che te lo faccio più in breve. Cazzo, invece è tornato a sbagliare. Aspetta che alziamo il volume qua, dimmelo. Scrivi, 3, 4, 8, 1, 4, 6, 5, 0, 3, 6. Ok, forse ci siamo. Chiama, vai. È arrivato. Oggi è una Attenzione Antonio Grode. Attenzione Grode Antonio. Attenzione 10. Attenzione 10. Attenzione 10. Prova il microfono. Beh, Giuseppe. Sì, già, vabbè. Ma lo siamo il prossimo. Sì, già. Vaga. E dove vieni? In Ginella? No, a casa sono. Io sono andato a un karaoke e ci siamo divertiti un bel. Ah, già tornato, sì. Io. Ma dove è da Sassari? No, fuori Sassari, a casa di amici. Ah, cappa. Ma già finito, avete? E noi ce ne siamo andati, sì. Domani io devo lavorare. Ah, allora sono rimaste. Brutto. E gli amici sono rimasti. Sì, chi non doveva lavorare hanno continuato, mentre in campagna potevano utilizzarsi come vuole. Va bene così, va bene, già va bene. Perché faccio gli auguri a un amico.